America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. I chose to make this announcement at the Freedom Tower because it is truly a symbol of our nation's identity as a land of opportunity. Marco Rubio, senatore della Florida, ha annunciato ieri la sua candidatura. Devo dire, mi sembra ieri, invece era già qualche anno fa, quando ho incontrato Rubio qui a New York a un fundraising per cercare di convincere alcuni newyorkesi che ancora non lo conoscevano che sarebbe stato un ottimo senatore e soprattutto una grande promessa per il Partito Repubblicano. Ebbene, così è stato, perché Rubio improvvisamente diventa uno dei protagonisti del partito nella corsa della Casa Bianca. Devo dire, anche uno dei protagonisti più forti nell'annuncio che ha fatto. Dice: ho scelto di fare questo annuncio al Freedom Tower perché è un simbolo dell'identità della nostra nazione come terra delle opportunità. Poi continua: ho un debito con l'America, devo provare a ripagarlo, credo che ci sia in gioco la nostra stessa identità di nazione straordinaria e posso fare la differenza in qualità di presidente. Io vivo in un paese eccezionale in cui anche il figlio di un barista e di una cameriera può avere gli stessi sogni e lo stesso futuro del figlio di un miliardario. This election is a generational choice about what kind of country we will be. That is why tonight, grounded by the lessons of our history, but inspired by the promise of our future, I announce my candidacy for President of the United States. Penso che questo paese, dice Rubio, si trovi in un momento generazionale dove deve decidere non che partito vuole in carica, ma che tipo di paese vuole che ci sia andando avanti. Penso che il ventunesimo secolo può essere ancora il secolo americano, deve essere ancora il secolo americano. Io credo che posso guidare questo paese in quella direzione. Ho cercato di contribuire a guidarlo verso quella direzione dal Senato, certamente posso guidarlo lì come presidente. Se il sogno americano diventa impossibile, dice ancora, saremo diventati semplicemente un altro paese. Insomma, siamo entrati in piena campagna elettorale. As you know, the Federal Open Market Committee this afternoon reaffirmed the current 0 to 1/4% target range for the federal funds rate. Janet Yellen, beh, non è un errore. Dite, ma come, si parla di politica e poi sentiamo il governatore della Federal Reserve? No, non è un errore, perché potremmo avere, a partire dal 2016, o meglio dall'inizio del 2017, due donne alla guida della potenza americana. Visto che Hillary Clinton è il candidato da battere, se vincerà la sua corsa per la Casa Bianca, sarà affiancata da Janet Yellen nella sua missione. Janet Yellen, presidente della Federal Reserve, oggi la donna più potente d'America. Insieme, queste due signore che rappresentano il meglio dei baby boomers dovranno risolvere la crisi più grave, più importante della superpotenza, una sfida su cui chiaramente si trovano già in sintonia: restituire dignità e reddito alla classe media americana. La Yellen, di estrazione democratica, come sappiamo, è decisa a rilanciare i salari cercando la piena occupazione. Per farlo è disposta a tenere i tassi di interesse bassi a oltranza, anche a rischio di un ritorno dell'inflazione. If you look at American history, there's also another important story to tell about how upward mobility really works. Hillary Clinton, la sentiamo che parla di economia. Il suo piano economico è certamente quello più importante della sua piattaforma elettorale, un'agenda ambiziosa che poggia sulle tesi di un fedelissimo della sua dinastia, della dinastia dei Clinton, l'economista Larry Summers, ex ministro con Bill Clinton, consigliere di Obama. Ebbene, Larry Summers, ve ne parlai al suo tempo proprio qui ai microfoni, in America 24, ha inquadrato il problema della sfida americana, quella stessa sfida di cui parla Rubio. Attenzione, perché il problema è comune, l'America è sintonizzata su questa sfida. Bene, lui l'ha inquadrata in un lungo saggio, scritto a più mani, sulla necessità di passare a una prosperità inclusiva. Summers dice che ci troviamo in una crisi strutturale caratterizzata da una forte debolezza della domanda che di rimando porta a deflazione, e questo si trasforma in una spirale negativa, ed è una spirale negativa tra l'altro di cui vi parlo perché riguarda un po' tutte le economie industrializzate. Questo circolo vizioso che cosa prevede? Beh, un'economia che magari cresce, come sta crescendo quella americana, non ancora la nostra, ma nonostante ci sia crescita, questa non si traduce negli aumenti di reddito reale per i lavoratori. Toccherà a Hillary imporre la sua visione agli americani per superare questi problemi che Summers definisce non solo strutturali ma addirittura secolari. Però ha un problema Hillary, e il problema sarà quello di cavalcare questo suo destriero elettorale senza rischiare di essere disarcionata, e non solo per gli attacchi dei repubblicani ma anche per le pressioni in arrivo dall'ala sinistra del partito, un'ala forte, militante, che chiede aumenti delle tasse, l'introduzione di aliquote fortemente progressive, cosa che Hillary si guarderà bene dal sottoscrivere. Come candidato la Clinton ha un vantaggio: per ora sembra essere l'unico democratico credibile per la nomination del suo partito. La sinistra vorrebbe alle primarie anche il senatore del Massachusetts Elizabeth Warren, secondo me ineleggibile per il grande pubblico perché è troppo a sinistra, ma sarebbe certamente in grado di disturbare l'agenda di Hillary. Ma che la situazione sia tesa è evidente anche dalle parole di questo signore, del sindaco di New York, Bill de Blasio. Well, Chuck, I think it's important that she come out with her vision as soon as possible, but there's certainly time. It's only April of 2015. Ecco, Bill de Blasio, che deve tutto a Hillary Clinton perché è stato il manager della sua campagna elettorale quando correva Hillary per diventare senatore, domenica, intervenendo dopo l'annuncio di Hillary, ha detto: beh, in questo momento non mi sento ancora pronto a sottoscrivere la sua candidatura. Voglio vedere come si comporterà sul piano degli aumenti fiscali, se davvero introdurrà delle aliquote altamente progressive. Ecco, è una pugnalata alle spalle. Questo è stato il titolo del New York Post, perché questo signore, devo dire, ma come si permette di attaccare la persona che l'ha spinto lungo la strada che l'ha portata a diventare sindaco di New York proprio nel giorno in cui fa l'annuncio? Dico, almeno aspetta un paio di giorni, aspetta un'altra occasione. Dunque, una situazione problematica, nonostante Hillary corra da sola, è un problema economico che sarà centrale, perché l'America è appannata nel suo ruolo di superpotenza globale anche per la sua classe media debole, per la sua spina dorsale che non riesce ad essere dritta. Devo dire che ci sono dei segnali di miglioramento, perché già la crescita degli ultimi anni ha diminuito il clamore delle tesi che davano gli Stati Uniti in declino, ma per poter recuperare la sua credibilità di essere, come dire, primus inter pares, una potenza, un faro per gli altri paesi, un faro di democrazia, di libertà, di prosperità, bisogna che l'America dimostri che la crescita dell'economia si può tradurre in benessere per la popolazione, per la classe media, dimostri che quel suo modello di democrazia, che vorrebbe esportare tra l'altro e che altri definiscono obsoleto, è ancora valido. E questa la vera sfida americana del nostro tempo, non solo per i democratici, per Hillary Clinton, ma anche per i repubblicani, per Marco Rubio, per Jeb Bush e per chiunque alla fine dovesse emergere come il vincitore della posta in gioco, la Casa Bianca del 2016. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!